Professor Leonardi, docente presso l'Università Statale di Milano. Da questo quadro sembra emergere due problematicità principali. La prima, una difficoltà nel creare nuove opportunità occupazionali, e dall'altro, un'assenza di tutele sociali per i lavoratori a contratto atipico. Quindi io le chiedo, perché non può essere risolutivo un ritorno a un modello di protezione contrattuale forte come può essere un contratto a tempo indeterminato per tutti? E se questa strada è impraticabile, quali strumenti abbiamo per coniugare flessibilità e protezione sociale senza che la flessibilità lavorativa porti inesorabilmente a precarietà lavorativa e della vita? Grazie. Grazie dell'invito. Andrea Cattani ha detto bene, la confusione è grande sotto il cielo. Io stasera non avevo deciso ancora che cosa dire esattamente, penso che la cosa più utile da dire sia questa. Vi faccio un digino di quelle che sono le posizioni in campo sulla discussione del mercato del lavoro. A costo di essere pedante, se sono troppo pedante mi interromperete, ma vi voglio fare il quadro completo perché in realtà è vero che la confusione è grande sotto il cielo, perché il problema non è semplice, quindi è forse più utile sapere chi pensa che cosa e perché, e quindi vedere tutte le posizioni in campo, centrodestra e centrosinistra, e tutte le varie pezze del centrosinistra, piuttosto che parlare in generale di precarietà, flessibilità, che magari tutti voi avete già sentito mille volte parlare di precarietà e flessibilità in mille modi senza avere le idee più chiare di prima, insomma. Allora, il bigino inizia così. C'è una sola cosa chiara nel dibattito politico sul mondo del lavoro, e questo è già qualche cosa. La cosa chiara è che il centrodestra e il centrosinistra la pensano in maniera diametralmente opposta, per una volta. Quindi chi è che vuole dire che non c'è differenza tra destra e sinistra? Su questo si sbaglia e non è poca cosa il mercato del lavoro. Semplicemente per questa ragione, perché il centrodestra è andato in giro a dire in questi anni che questo è il mercato del lavoro migliore possibile e che la flessibilità, e lo sentite io con le mie orecchie, non ci credevo, ma è vero, è verissimo. E che la flessibilità non è maggiore adesso di quando erano loro giovani, cioè loro sono Sacconi, Tiraboschi, gli esperti nel mercato della Brunetta, Tremonti, quelli che fanno le leggi, che parlano di mercato del lavoro, e che il grado di flessibilità di adesso è uguale a quello che c'era quando loro erano giovani, e che tutto sommato questo è il mercato del lavoro migliore possibile, che è molto vario e quindi magari anche ingiusto, ma molto flessibile. Nella sua flessibilità riesce a coprire tutti i buchi. Insomma, questo è l'argomento. Dall'altra parte, il centro-sinistra dice invece che forse questo è il mercato del lavoro peggiore possibile. È chiaro che secondo me a questo livello di astrazione penso che si possa essere d'accordo con il centro-sinistra. Però, siccome vi devo fare il bigino completo, perché altrimenti poi le idee non sono più chiare di prima, bisogna dire che dentro il centro-sinistra ci sono a sua volta delle idee molto diverse. Anche qua, per essere schematico, altrimenti ci perdiamo. Secondo me ce ne sono tre. E che tutte e tre implicano cose diverse. La prima è questa. Ieri ero a un dibattito con Rinaldini della FIOM, quindi la sinistra, sinistra. E l'idea è questa, che il lavoro è diventato una merce, la merce è stata svalutata, ormai conta solo il capitalismo delle imprese. L'unica reazione possibile è sostanzialmente dire no a tutto e non toccare niente nel mercato del lavoro, cioè dire no a toccare l'articolo 18, dire no a toccare il statuto dei lavoratori, dire no a toccare il contratto collettivo nazionale. Dire no a tutto il possibile immaginabile, dire no all'arbitrato, dire no a tutto, praticamente tutto. E a un certo punto sono rimasto anche un po' sorpreso, ho detto: ma scusate, ma dicendo no per 20 anni non è che avete evitato il fatto che in questi 20 anni gran parte della ricchezza sia andata ai profitti, alle imprese piuttosto che al lavoro. Non avete evitato il fatto che comunque la si voglia guardare il peso del sindacato in quasi tutti i paesi, non è un fatto solo italiano, ma in quasi tutti i paesi d'Europa, Stati Uniti, Canada, America compreso, è andato declinando. Però tant'è che questa è la posizione. Quindi se la vogliamo vedere, il primo pezzo di centrosinistra dice no a tutto e in particolare dice sostanzialmente che i contratti flessibili, i contratti temporanei, che sono di diverso tipo, non ce n'è uno solo di contratto temporaneo, ci sono i contratti a tempo determinato, cioè tu sei un lavoratore dipendente, invece di essere un lavoratore dipendente a tempo indeterminato, sei a tempo determinato, lo puoi fare per 2 anni e adesso, dopo il governo, l'ultimo governo Prodi, l'ultima cosa che ha fatto, ha detto che questi contratti di 2 anni non si possono rinnovare per più di 3 volte. Questo è il contratto a tempo determinato, poi c'è il co.co.co. Che è un'altra cosa, il co.co.co. va a progetto, il co.co.co. non ha nessun limite di salario, gli puoi dare il salario che vuoi, più basso che vuoi, di solito sta attorno ai 1.000 euro in media. Poi ci sono i lavoratori interinali, che sono un'altra cosa ancora, che sono quelli delle agenzie, cioè se io voglio un lavoratore per un giorno, 2 giorni, una settimana, 2 settimane, vado un'agenzia interinale, lo pago magari molto di più. Questo lavora in realtà per l'agenzia interinale, non lavora per me, e io sostanzialmente quello che faccio è lo affitto, senza nessuna implicazione negativa. Il lavoro interinale c'è dappertutto. È una frazione molto piccola, è una frazione molto piccola anche in Italia. E poi esiste in Italia, molto più che negli altri paesi europei, la partita IVA. La partita IVA è una cosa tipica italiana. E poi all'ultimo parleremo anche un po' di partite IVA. Le partite IVA sono. Negli altri paesi non capiscono perché ci vanno da così tante partite IVA. Il nostro è l'unico paese che ha il 25% dell'occupazione in qualche forma autonomo, cioè o partita IVA o contratto temporaneo. L'unico paese. Le partite IVA, che spesso fanno lavori che sono in tutto e per tutto quelli che fanno i lavoratori dipendenti normali, negli altri paesi si chiamano lavoratori dipendenti, solo da noi si chiamano partite IVA. Comunque questo è. Per tornare alle posizioni del centro-sinistra, la posizione Fion direbbe cancelliamo ad un tratto la possibilità di fare il co.co.co, i lavoratori, i contratti a tempo determinato, cancelliamo la maggior parte delle partite IVA che sono finte, torniamo al mondo di prima. E questo perché non si fa e perché non si può fare? Perché quel grafico che ha mostrato Andrea, l'ultimo che ha mostrato, è vero, non se l'ha inventato, è vero. Cioè, è vero che comunque in questi, diciamo, 20 anni di crescita del lavoro temporaneo o precario, in qualche modo precario, non tutti i temporanei poi sono precari, però diciamo che una gran parte sono precari, però è vero che, se voi forse non vi ricordate, ma solo 10 anni fa, 15 anni fa, l'Italia era un paese ad altissima disoccupazione. Prima della crisi era un paese a medio-bassa disoccupazione, cioè i lavori temporanei, i nuovi contratti, in qualche modo hanno permesso l'aumento dell'occupazione. E quindi non è facile dire li eliminiamo di un colpo e magari torniamo alla disoccupazione che avevamo 15 anni fa. Questa è la prima posizione. Seconda posizione del centro-sinistra, sempre quella del centro-destra è sempre uguale, va bene così, Madama Marchesa. La seconda posizione è quella di Treu. E quella di Treu sostanzialmente dice: il modo per risolvere il problema del mercato del lavoro italiano è far sì che un contratto temporaneo costi non di meno, ma di più di un contratto a tempo indeterminato. E quindi cosa succede? Aumentiamo le aliquote contributive sul lavoro temporaneo, perché quando Treu li introdusse, i co.co.co., c'erano già i co.co.co., non li introdusse lì. Però lui fece una legge che diceva che il contributo pensionistico del co.co.co. era il 10%, ragione anche per cui adesso i co.co.co. hanno basse pensioni, perché solo nel 95 hanno iniziato a pagare i contributi per le pensioni e le pagavano bassissimi, 10%, adesso molto di più. Però cosa è successo? Ovviamente questo diede un'esplosione al fenomeno del co.co.co. e del lavoro a progetto, perché si poteva pagare i contributi al 10%. E costavano molto meno e tuttora costano molto meno perché non hanno minimi salariali, li puoi dare quello che vuoi, invece un lavoratore normale gli devi dare un salario di contratto. E quindi la soluzione di Treo dire aumentiamo le aliquote sul co-co-co e riportiamoli a costare di più di un lavoro a tempo indeterminato. Il problema di questa posizione è questo. Il problema è che non è semplice aumentare le aliquote, sostanzialmente la tassa sul lavoro, a nessuno, tantomeno a dei lavori che sono dei lavoratori che sono precari. Per di più che succede? Non è semplice perché, siccome esistono anche le partite IVA e il mondo del lavoro è a vasi comunicanti, tu alzi le aliquote sul co-co-co e l'impresa, invece di farti co-co-co, co-pro, ti fa una partita IVA e così ti frega. Tu vuoi alzare le aliquote contributive sulle partite IVA? Attenzione, perché fa incazzare neri quelle partite IVA vere. In furibonde sono, perché più di una volta gli hanno alzato i contributi sui pensionistici. E quelli sono i lavoratori autonomi che il centro-sinistra non lo guardano neanche negli occhi e ogni volta che si parla di alzare i contributi pensionistici non ci vedono più dalla rabbia. Sono quelli che hanno pagato di più la crisi, quelli che non hanno nessuna protezione sociale e se gli aumenteremo anche le tasse e i contributi pensionistici sono furiosi. Quindi questa è la seconda posizione. Facciamo costare di più un lavoratore a tempo flessibile, tempo determinato, di un lavoratore a tempo determinato. Terza posizione. Il bigino è quasi completo. Però secondo me è utile capire un po' che cosa c'è sotto il cielo, perché sennò la confusione è totale. Terza posizione. Terza posizione è Boeri, Garibaldi, oppure Ichino, oppure quelli che come me ha una visione ancora diversa, ma comunque tutte sotto un cappello unico che si chiama contratto unico. E dice questo. Dice, è inutile insistere sul fatto che noi tutti dobbiamo, sarebbe bello avere tutti un contratto a tempo indeterminato come ce l'aveva il papà e la mamma, tanto è inutile perché non tornano più questi contratti, perché la metà della forza lavoro già oggi in Italia non è coperta dall'articolo 18, non è coperta dalle tutele che hanno i lavoratori a tempo indeterminato. Quindi già la metà è fuori, è stato aggirato in mille modi. Allora, tanto vale pensare a un nuovo contratto di lavoro, che possa entrare in vigore per i nuovi lavoratori, non per quelli che già ci sono, perché quelli che già ci sono è difficile che gli cambi il contratto al volo e quelli non starebbero senz'altro zitti. Facciamo un nuovo contratto per i giovani e lo facciamo a tutele crescenti, cioè facciamo un contratto che ti dà una prova più lunga, invece di provarti per solo 3 mesi in azienda ti provano per più tempo, però poi dopo se ti vogliono licenziare dopo il periodo di prova, che sarebbe 6 mesi o un anno, se ti vogliono licenziare fino a 3 anni possono farlo e ti devono pagare. Dopo, al terzo anno, non possono più farlo tanto facilmente perché entra in vigore il famoso articolo 18, per cui se ti licenzi e tu vai dal giudice e dici no, mi hanno licenziato per causa ingiusta, non avevano ragione di licenziarmi, e il giudice ti dà ragione, ti reintegra nel posto di lavoro, reintegra. Quella è la protezione più alta possibile. Il famosissimo articolo 18 è il reintegro. L'articolo 18 vale solo per le aziende sopra i 15 dipendenti, quindi non tantissime le aziende. Metà dei lavoratori lavorano nelle aziende, metà della forza lavoro degli occupati italiani lavorano nelle aziende sopra i 15, l'altra metà sta o sotto i 15 o è a contratto, altri tipi di contratto, per cui non è coperta. Però questo è la prima proposta. Tipo, poi Garibaldi dicono così, facciamo un contratto per tutti i giovani, tutti quelli che entrano, ma anche per chi cambia lavoro, cioè se uno ha 50 anni e cambia lavoro, entra in un nuovo tipo di lavoro, c'è questo nuovo contratto che non ti protegge da subito contro il licenziamento dell'articolo 18, ti protegge a tutte le crescenti. E questa è una proposta. Quella di Ichino è ancora diversa. Quella di Ichino dice non abbiamo solo un problema di entrata nel mercato del lavoro che diventi più flessibile, abbiamo anche un problema drammatico di uscita. Allora mettiamo insieme l'entrata e l'uscita, cioè facciamo un contratto unico che preveda anche che una volta che tu perdi il lavoro, l'impresa e il lavoratore costituiscono un fondo che si paga durante, se io sono occupato nell'azienda per 3 anni, pago dei contributi. L'impresa e il lavoratore gestiscono sostanzialmente questi contributi che diventa poi, una volta che perdo il lavoro, diventa la mia assicurazione di disoccupazione. L'impresa poi dovrebbe preoccuparsi in qualche modo di piazzarti da qualche altra parte, tu dovresti preoccuparti di cercare il lavoro e non di dire di no alle offerte di lavoro. Quindi Ichino mette insieme l'entrata, quella prova lunga, quel pezzo di possibilità di essere licenziato fino a 3 anni, però con un'uscita. E poi dice sostanzialmente questa cosa, l'articolo 18. Bisogna toglierlo dai licenziamenti per motivo economico. Perché? Perché i giudici non sono capaci di, lo dice lui, evidentemente se ne intende, non sono capaci di decidere se il licenziamento per motivo economico è giusto o non è giusto. Perché tipicamente se io ti licenzio perché non ce la faccio più, non sta più in piedi l'azienda, e tu vai dal giudice, poi dopo io devo portare dal giudice tutti i bilanci, ma tutti i bilanci, come spesso accade nelle aziende, sono casino, e il giudice capisce molto meno di tutti gli altri, e il giudice quindi non può fare altro che sostanzialmente o andare un po' a caso oppure essere pregiudizialmente per il lavoratore o per l'impresa. Infatti molto spesso è così. Sono, quando ti estraggono, perché ti estraggono quando sei in tribunale, il giudice a cui vai, sei estratto, se tu una volta che sai il nome del giudice sai anche la probabilità che ti dia ragione come lavoratore o che ti dia ragione come impresa, perché ogni giudice ha il suo orientamento. Quindi lui dice, togliamo l'articolo 18 da quei licenziamenti, lasciamoli sui licenziamenti discriminatori, cioè quelli perché sei nero, perché sei donna, perché sei incinta, perché sei brutta, perché quello che volete. Su quello lo lasciamo, perché lì i giudici sono bravi e ci capiscono. Sul licenziamento economico, no, perché non ci capiscono niente e sostanzialmente hanno dei pregiudizi. Questo è il secondo pezzo di Chino. Qual è il problema del pezzo di Chino? Il pezzo di Chino ha qualche problema, nel senso che è un pezzo che è una riforma che è costosa. Lui dice di no, ma insomma è costosa, perché tanto è vero che Confindustria non la vuole, perché aumenta molto le aliquote che tu dovresti pagare per garantirti la disoccupazione poi. E ha delle possibilità che la gente in Italia, capita spesso, ne approfitti, cioè che i lavoratori si facciano licenziare per farsi riassumere, farsi pagare le indennità di disoccupazione, che le imprese, per evitare l'articolo 18, dicano che i licenziamenti sono di tipo economico e quindi possono licenziare anche quando invece sono discriminatori e andrebbero sotto l'articolo 18. Quindi ci sono dei problemi anche alla proposta di chi. Questo per dire che il contratto unico è in discussione, è stato spesso in discussione, se volete sapere anche tutto il giro, il PD ne ha discusso approfonditamente, perché adesso c'è un documento che tenta di essere una sintesi di tutte queste posizioni, e sul contratto unico è tiepido, diciamo, non dice lo facciamo, dice è una cosa che teniamo in considerazione, è una cosa che si può fare se le condizioni economiche saranno migliori, ma non dice lo facciamo subito e ora. Perché, e poi concludo perché se no mi sa che vado troppo avanti, perché non si fa subito e ora? Perché questo è il punto più politico, e quello è il punto anche dove entro nel dettaglio di quello che secondo me è la cosa più semplice da fare e più immediata. Perché la confusione è grande sotto il cielo e non si trova un accordo su che fare? Per risolvere le cose che diceva Andrea Catania e i bellissimi film di prima. Non si trova perché, a mio modo di vedere, il tema del lavoro è sempre stato molto ideologicamente utilizzato strumentalmente in maniera ideologica, però in Italia abbiamo avuto recentemente anche la famosa battaglia sull'articolo 18. E la battaglia sull'articolo 18, lo ricordate, il 2002-2003? Sì, forse no. Cofferati e 3 milioni in piazza. La storia era questa. Berlusconi aveva deciso di eliminare l'articolo 18. Apriti cielo. 3 milioni in piazza, Cofferati vinse quella battaglia. E Berlusconi si dovette ritirare con la coda tra le gambe. Il risultato di quella battaglia però fu questo, che da una parte Berlusconi, tutto il suo governo, ha smesso completamente di parlare di articolo 18, infatti sono passati alla posizione questo è il migliore mercato del lavoro possibile, che vuol dire non tocchiamo niente, compreso l'articolo 18, tutto fermo com'è. Al massimo quando c'è la crisi aumentiamo e allarghiamo la cassa integrazione, ma non tocchiamo niente di strutturale, nel mercato del lavoro, perché sennò succede un casino. Hanno capito che è impopolare. Quindi il centrodestra è bloccato da quel punto di vista. L'unica posizione che ha è: questo è il migliore mercato del lavoro possibile. Il centrosinistra, dall'altra parte, però, è bloccato dalla parte apposta. Perché questa è una grandissima vittoria contro Berlusconi, come di quelle che non ce ne sono state tante in questi anni. E quindi dice: vogliamo inimicarci tutti quanti riproponendo qualche riforma del mercato del lavoro che magari non siamo d'accordo, che magari la gente si arrabbia, quando invece l'ultima cosa con cui abbiamo veramente vinto è stata la difesa dell'articolo 18? Fatto sta che secondo me dal punto politico è questo, che le cose sono bloccate perché questa vittoria del centro-sinistra e sconfitta del centro-destra ha bloccato le cose. Gli uni perché il centro-sinistra, perché sanno di aver vinto e vogliono mantenere la vittoria, gli altri sanno che su quel terreno lì possono perdere esattamente, e quindi non ci si avventurano più. E infatti tutte le volte, perché parlo di questo, infatti tutte le volte che c'è in discussione qualche forma di contratto unico, tutte le volte la prima cosa che ti chiedono, quando fa, per esempio, adesso che sono girati i progetti di legge, perché sono usciti anche dei progetti di legge sui contratti unici, i parlamentari tutti ti chiedono: ma quanto di questa proposta tocca l'articolo 18? Che cosa succede all'articolo 18? Ma l'articolo 18 viene diminuito? Ma l'articolo 18 verrà mantenuto? E l'unica parola che esiste in questo tema è: quanto sta in piedi questo articolo 18? Per quanto riguarda il contratto unico, perché è vero che il contratto unico è il tentativo, dopo il 2002, in qualche modo di aggirare il problema, cioè di proporre delle riforme, stanno ben attenti a aggirare il problema dell'articolo 18. Quindi questo abbiamo fatto. Siccome non abbiamo avuto il coraggio di toccarlo direttamente, il reintegro, l'articolo 18 è il reintegro, la possibilità di essere reintegrati sul posto di lavoro se sei licenziato ingiustamente. Quindi tutto il dibattito sull'articolo 18 è il dibattito per aggirare l'ostacolo articolo 18, questo è in sostanza. Io adesso vado a finire veramente. Secondo me però il problema rimane, e rimane molto serio, perché non è che il precariato se ne va, il precariato aumenta, e con la crisi aumenta ovviamente, la corruzione aumenta, questo è chiaro, e dopo la crisi non c'è nessun segnale che tornerà indietro. E invece il segnale molto chiaro è che ormai la partita IVA e la politica della partita IVA è bella, che è tipica di Tremonti, e che è una rovina vera, non solo perché convince tutti quanti che essere lavoratore autonomo e partita IVA è bello perché sei autonomo, ma anche perché ha distrutto il tessuto industriale italiano, perché voi capite bene che se invece di avere dei lavoratori dipendenti che lavorano in delle imprese un po' grandi, che possono fare qualche forma di strategia e qualche forma di politica industriale, tu hai una marea di persone che lavora sì per le imprese, però fa finta di non lavorare, fa finta di lavorare autonomo, fa finta di lavorare a partita IVA vera, quando invece è in realtà un dipendente mascherato. A quel punto tu hai imprese molto piccole, imprese molto disperse, e con questa teoria del piccolo e bello tu hai detto addio a qualunque forma di politica industriale e addio a qualunque forma anche di influenza politica su questa vastissima parte della popolazione e della popolazione che lavora, soprattutto al nord. Quindi questo secondo me è il sostrato economico di quella che è la difficoltà politica del centro-sinistra di affrontare il problema politico del lavoro al nord, cioè la vastità sempre più grande dei lavoratori autonomi, che non sono veri lavoratori autonomi. Non esiste paese come l'Italia con il 25% dei lavoratori autonomi, come l'Italia, non sono veri, sono falsi spesso. Con la difficoltà appunto che hai diminuito la dimensione di impresa a un punto tale che non hai più neanche il controllo di nessuna politica di tipo industriale. E questo qua vado veramente a finire, quindi io credo che davvero l'unico punto di riforma del mercato del lavoro che ci può aiutare su quella strada è un punto che sta dentro il contratto unico, ma è un punto più semplice del contratto unico, perché abbiamo visto che ci sono delle difficoltà per l'applicazione del contratto unico, che dice semplicemente questo, che torna sostanzialmente a quello che dicevamo nell'anno 2000. E nell'anno 2000 dicevamo semplicemente questo: guardate, l'articolo 18 è tanto bello, ma è anche tanto ingiusto, perché protegge ormai la metà della popolazione lavorativa, solo quella che sta nelle grandi imprese. tutti gli altri sono fuori, tutti gli altri sono fuori, la metà dei lavoratori sono fuori da questa protezione. È una cosa che molto spesso non funziona, perché i reintegri, quando vengono fatti, anche nel caso di Melfi, l'avete visto adesso, il caso della Fiat, li hanno reintegrati, però non li hanno reintegrati al lavoro, li hanno reintegrati e l'hanno messa nella saletta a guardare il muro, e non c'è nessun obbligo che io ti debba rimettere al lavoro. Posso reintegrare nel senso che ti pago ancora, ma tu poi puoi fare, guardi il muro. Quindi quello che dicevamo nell'anno 2000, diceva il centro-sinistra, era: guardate, in cambio di un alleggerimento dell'articolo 18, che può essere per esempio come hanno fatto in Germania o come hanno fatto in Spagna, nel senso che si dice, si fa così, si dà l'opzione al lavoratore che viene licenziato, si dice: vieni licenziato? Sì, ti diamo una grossa somma di denaro che si può determinare per legge, in Spagna è molto alta. Se tu la prendi, se tu accetti questa offerta, non vai più in tribunale, non puoi più andare in tribunale. Se invece non l'accetti, puoi ancora andare in tribunale e far valere il tuo articolo 18. In cambio di questa possibilità in più, che darebbe più flessibilità in qualche modo alle imprese, in cambio di questo, secondo me, una politica di eliminare gran parte del co-co-co, che è un'altra cosa che negli altri paesi del mondo non esiste. Quando parli con gli stranieri, gli fai co-co, gli dici il co-co-co, mi prendono sempre in giro, mi scrivono le email, facciano le riunioni dei co-co-co, perché non si capisce che cosa, ma non sto scherzando, nel senso che il co-co-co non capiscono che cos'è il lavoro a progetto o il lavoro coordinato continuativo, non esiste semplicemente. Eliminare gran parte di quegli incentivi che hanno le imprese a lavorare a partite IVA esterne. Le grandi imprese molto spesso lavorano così, invece di assumere, siccome l'assunzione è un'assunzione del lavoratore, è anche un'assunzione di responsabilità, di formazione, un'assunzione di rischio, perché non può essere un lavoratore adatto, un'assunzione di mille cose, e paura di questa incertezza, molte imprese assumono la partita IVA. E anche questo deve smettere di finire. Deve finire dal punto di vista economico, perché non ha nessuna equivalenza in nessun paese d'Europa, ma anche dal punto di vista politico, perché io credo che questa sia davvero la parte economica della rovina politica di questo paese, nel senso che se si decentralizza a questo punto così sbriciolato sia la politica sia l'economia, è poi molto difficile portare avanti politiche industriali e la politica vera, cioè quella di controllo, di indirizzo degli interessi. Io finisco qua, grazie.